che sboccino mille fiori nel teatro, tanti palcoscenici, tanti linguaggi e ovviamente con la rubrica in scena avremo spazio per tutte, per tutti, per i contenuti, per i percorsi. E come vi ho detto, dopo questa anticipazione che ha dato il via al nostro palcoscenico alzando il sipario sul venerdì 28 giugno, ultima puntata per il mese di giugno 2024, procediamo, estate, sei calda come i baci che ho perduto, perdonate la citazione, però poi quando arrivano determinati appuntamenti, oh, si ha come una conferma. Allora è vero, è estate e ce ne sono due in particolare, con una sede che nel cuore mi sta, poi non ovviamente tutte, come ho già anticipato. Siamo a Teatri di Vita, grazie Stefano Casi che porta avanti un programma che non si ferma, ma che procede con l'estate, con una primavera, se vogliamo, con una primavera di residenze che abbiamo poi vissuto nella tarda primavera 2024. Ho avuto modo di vedere, di ammirare lo spettacolo Diva all'Opera e vi assicuro che è stato veramente coinvolgente, oltre che in una maniera curiosa, intelligente, portato da una talentuosa artista che ha intrattenuto un pubblico rapito da questo spettacolo. Comunque, in questo caso, già in estate, la conferma che è estate è il cuore di... Allora, Teatri di Vita per ogni stagione porta un paese che diventa protagonista. Abbiamo, non so quante edizioni ne abbiano portate per cuore di... Beh, l'ultimo appunto, quello che avremo dall'1 al 7 luglio, è Cuore di Polonia. Ricordo Cuore di Grecia, ma di cuori... Volevo anche, tra l'altro, se avrò modo di chiacchierare con Stefano Casi, chissà se alla fine ci sarà un All-Star Game di tutto questo cardioritmo in teatro, con un All-Star Game che vede Teatri di Vita contro il resto del mondo, perché ormai ovviamente in un confronto oltre che amichevole, come ben sappiamo, ma anche dialogico e interessante per l'approfondimento di ogni zona, di ogni stato, perché già veramente queste bandiere stanno diventando veramente molto variopinte. In questo caso Cuore di Polonia, con film, spettacoli, fotografie, incontri per raccontare i confini e le identità. Allora, poi anche l'attenzione per determinate situazioni geografiche. Sappiamo la Polonia percorso, ogni volta che anche nella cronaca estera sento la Polonia io do così, mi tremano un po' le vene ai polsi. Per cui onore al merito in questo caso chi invece ha dato uno sguardo a tutto ciò per quanto riguarda l'arte, per quanto riguarda raccontare confini e identità. Qui ovviamente vi sono i titoli e la programmazione, ma quello che mi ha colpito è la volontà, il percorso, la ricerca, il dare un'altra voce a una situazione che magari noi conosciamo unicamente, come ho detto in precedenza, dalla cronaca estera. Ecco, in questo caso vi è una possibilità di andare oltre grazie a questa rassegna e grazie, aggiungo anche a parte, che ho preparato una colonna sonora a tema con il jazz che arriva dalla Polonia, dal contemporaneo al passato. Beh, detto questo, un grande grazie ad Anna Cesari, sapete che ho sguinzagliato un po' tutta la redazione per aver modo di approfondimento per quanto riguarda questo periodo particolare di stagione dove vi sono anticipazioni e presentazioni stesse. Quindi grazie a Anna Cesari che ha portato Stefano Casi in frequenza per questa puntata in scena e ascoltiamo questo incipit di Cuore di Polonia 2024. Siamo con Stefano Casi, direttore artistico di Teatri di Vita, per presentare il Festival Cuore di Polonia. Iniziamo dal titolo. Questo festival ci permette di alzare lo sguardo dal nostro ombelico e gettarlo oltre i nostri confini. Perché Polonia quest'anno? Sì, ogni anno il Festival Cuore di affronta un diverso paese straniero, che è sempre un paese in qualche modo al centro di una particolare attenzione. Perché la Polonia quest'anno? Perché è il paese al confine dell'Europa, nel senso al confine dell'Unione Europea, è in una situazione di confine molto infiammato e delicato, perché appunto al confine con l'Ucraina e con la Bielorussia, quindi con tutte le problematiche legate alla guerra e legate alla migrazione, per esempio. Quindi da una parte è il paese che accoglie più profughi ucraini, dall'altra è un paese che respinge i migranti di altre etnie. È il paese che all'ultima elezione del Parlamento europeo ha espresso, uno di quelli che ha espresso più deputati, quindi influendo sul futuro dell'Europa. È il paese che al suo interno affronta questioni molto delicate, la questione della giustizia, dei diritti, il diritto all'aborto, insomma, ci sono tantissimi temi che portano la Polonia in primo piano. E quindi nella nostra ricerca del paese in primo piano su cui indagare, naturalmente non in termini politici o sociologici, ma in termini artistici e culturali, ecco la Polonia, e quindi Cuore di Polonia. La Polonia è infatti un paese sottovalutato dal punto di vista culturale. In realtà ci sono grandi nomi che hanno fatto la storia della cultura polacca e anche europea, chiaramente. Quest'anno nel programma del festival chi sono i protagonisti? Sì, la Polonia tradizionalmente, allora, da una parte c'è sempre un po' l'impressione, sì, la Polonia, così, e dall'altra, come dire, nel mondo del teatro, Grotowski e Cantor, come dire, hanno fondato gran parte del teatro contemporaneo, o registi da Kieslowski a Polanski. Insomma, la Polonia è un punto di riferimento gigantesco, ma se pensi alla musica Chopin o alla poesia la Szymborska, che ha vinto il premio Nobel recentemente. Ecco. Fratelli Brecher, il povero Michael Brecher al sax tenore, Randy Brecher alla tromba, qui stanno accompagnando un musicista polacco, saxofonista, violinista, polistrumentista e produttore, Michael Urbaniak. In una formazione Urbanator, appunto ideata da questo musicista di origine polacca, Urbaniak, che vede delle collaborazioni veramente molto molto particolari. Aggiungo anche Kenny Garrett, aggiungo Herbie Hancock. Avremo modo magari di conoscere meglio questo disco che spesso propongo al Breakfast Club. Eccolo qui, al violino, Michael Urbaniak. Beh, infatti molte volte abbiamo troppa velocità nel liquidare la Polonia con una sufficienza per quanto riguarda l'arte. E se però lo facciamo con uno sguardo assente da pregiudizi, beh, Chopin, per parlare di musica, le immagini, è vero, l'artista Tamara de Lampicka, abbandonate e distaccate le idee, insomma, ma teniamo presente questa artista, in questo caso arte figurativa. Beh, diversi, il cinema di Kieslowski, di Roman Polanski e poi la recente premiata con le sue narrazioni poetiche, i suoi calembours, la Szymborska. Living Here si apre un'inaugurazione lunedì 1 luglio alle ore 18. Loro vivono qui, mostrano le loro case, volti, corpi, mobili, oggetti. È una mostra fotografica e un caso di omonimia di Isabella Urbaniak. Alle ore 18, come ho detto poi, Animazia, giornate con l'animazione polacca, cortometraggi. Avremo la possibilità di visionare anche questo aspetto di espressione artistica eterogenea e in maniera diversificata per quanto riguarda il cuore di Polonia. Film, proiezioni, esposizioni, incontri che saranno dal 1 luglio al 7 luglio. On the grand live band with the shades and the fly tans to the left, stashes and goatees, macking like OGs, feel a sustain from the low key slow breeze through your brain as you close your eyes like the closing doors on the A train. My lyrics is gravy for hot jazz biscuits. Hot Jazz Biscuit, l'incontro con il trombettista Tom Brown, in questo caso nel brano di Urbanator di Mikhail Urbaniak. Grazie Anna per l'ottimo lavoro, in dialogo con Stefano Casi, direttore artistico. Finalmente è estate, quando sento la rassegna Cuore di, dico ok, ci siamo, è estate. Allora, rispetto a tutto questo, il nostro sguardo sarà sulla produzione contemporanea, su quella attuale. E quindi ci saranno tre spettacoli dal vivo di realtà produttive teatrali molto importanti anche a livello internazionale, che sono il Novi Teatr di Varsavia e la Comuna Varsavia. Queste due in particolare sono particolarmente significative e saranno spettacoli di teatro danza e di teatro documentario. Questo è un po' il quadro della parte spettacolo dal vivo. Mentre per il cinema c'è una proposta molto molto vasta di produzioni degli ultimissimi anni, quindi c'è anche il grande maestro ultraottantenne Jerzy Skolimowski con il suo ultimo film, ma ci sono anche film presentati in festival internazionali di giovani autori. E ci sarà tutta una parte, in due giorni affronteremo quello che è uno dei fiori all'occhiello del cinema polacco, che è il cinema d'animazione. E quindi cortometraggi d'animazione, film d'animazione, perché la Polonia è stata in questo campo davvero un punto di riferimento internazionale enorme. Direi che possiamo concludere con date e luogo. Sì, Cuore di Polonia è dall'1 al 7 luglio, quindi una settimana. Il luogo è Teatri di Vita all'aperto, ma ci sono anche c'è anche al coperto nel caso piova, non si sa mai in questo periodo. Quindi però siamo all'aperto in un parco e accanto al teatro e al cinema c'è anche la musica, quindi ci sarà il DJ set con la festa finale, ci saranno incontri con vari testimoni, vari protagonisti. E si potrà mangiare bene. Ecco, tutto questo, diciamo, trasforma Cuore di Polonia da semplice, tra virgolette, festival di teatro, cinema, eccetera, in una vera festa popolare aperta a tutti. E per gli spettacoli in particolare, spettacoli e film, c'è un abbonamento complessivo a 39 euro. Grazie a Stefano Casi. Grazie a voi. Vocal jazz dalla Polonia, la formazione è un quartetto appunto di vocal jazz ripreso tra il 63 e il 75 grazie alla Giazzanova Compost Record, che ha portato uno sguardo anche all'est Europa nella raccolta che vi sto proponendo. Il brano è All Together, loro sono dalla Polonia, Novi Singers. Forse non tutti sanno che. Allora, risalendo la Via Emilia, siamo nel 1945, troviamo proprio a confine tra Bologna e San Lazzaro un deposito delle memorie militare per i combattimenti che si sono tenuti nella zona. Allora, quello di cui vi sto parlando ovviamente è il cimitero dei Polacchi, immediatamente prima di Bologna, al termine del territorio comunale di San Lazzaro. E il primo militare, risalendo Strada Maggiore e arrivando al centro della città, per quanto riguarda il 21 aprile 1945, è stato un soldato polacco. C'è un video di repertorio, intanto che la città si stava riversando verso il centro, c'è questo filmato rarissimo, tra l'altro, che ho avuto la possibilità di vedere, dove questo neanche ventenne ragazzo si affaccia sotto la torre degli Asinelli, così in maniera molto preoccupato, perché non sai mica poi quel che trovi nel cuore della città, a proposito di cuore, di muscolo cardiaco, no? E invece ha trovato appunto il timore, si è subito trasformato in un sorriso, di questo ragazzino biondo, incerto, un militare polacco, comprensibilmente molto spaventato. È stato il primo ad entrare a Bologna per il 21 aprile 1945, Bologna libera dal nazifascismo. Giovedì 4 luglio alle ore 19, tracce di Polonia sotto le due torri con Manuela Capece. Il cimitero militare polacco alle porte di Bologna lo conoscono tutti, non è un caso che sia lì, considerando che furono i soldati polacchi i primi a entrare nella Bologna liberata. Quello che pochi sanno invece è che Bologna ha numerose altre tracce di Polonia disseminate nel tessuto della città, quasi nascoste, ma che raccontano una storia e tante storie che meritano di essere conosciute. Accompagnarvi in questa sorprendente caccia al tesoro è Manuela Capece. La sezione Schegge di Polonia è un invito al dialogo con vive testimonianze su quel che crediamo di sapere e su quel che non immaginiamo sia importante sapere. Sarà giovedì 4 luglio, Teatri di Vita, alle ore 19. Interessante, eh? A seguire Lettere dal fronte interno, poi per quanto riguarda la serata che ho selezionato nel dettaglio per questa estesa, per una settimana rassegna da 1 al 7 luglio. Grazie a Teatri di Vita, a Stefano Casi, Teatri di Polonia, e per l'ottimo lavoro Anna Cesari per la redazione culturale del Breakfast Club, ma soprattutto di Radio Città Fusico. Pubblicità, tra pochissimo si rientra. Abbiamo fatto un'anticipazione di stagione 2024-2025, una rassegna estiva. Quando rientriamo faremo un last minute che si collega poi con la presentazione che ci sarà oggi alle ore 12 per quanto riguarda ERT al Teatro Arena del Sole. A tra poco. We'll be right back.